Ed eccoci qui allora. Ciao a tutte. Ciao a tutte e a tutti. Abbiamo un grande rientro, Palmi. In ritardissimo. Il grande rientro di chi? Di te, Palmi. Ah, scusate. Buon pomeriggio a tutti. Benvenuto e benvenute a tutti quanti alla 144esima puntata di Radio Contado, la sesta stagione. E preparatissimo il ragazzo. Madonna, è in forma spumeggiante questo ragazzo. Vi ricordiamo che potete ascoltarci su radiowombat.net, scriverci a radiocontado@insiberia.net oppure non ascoltarci sulle frequenze AM. Perfetto. Quali? Ti interrogo. Appunto, non ascoltarci. Ah, non ascoltarci. Sulle 13.59. Per i pochi affezionati. Ci scusiamo per il ritardo, però è giustificatissimo perché oggi siamo tantissimi qui in regia e abbiamo degli ospiti internazionali, si può dire? Si può dire. Dalla Francia addirittura. E siamo una bellissima formazione, siamo in quattro. Con tanto di traduttori e traduttrici perché se no saremmo stati perfettamente incompetenti e impreparati. Quindi ci stai consigliando Takeshi di fare un bel corso di francese. Anche di inglese io, però. Inglese, francese, spagnolo, ci può servire? Dai, proviamo. Invece io sono particolarmente contenta perché oggi si parlerà di film, oltre che di Francia, no? Perché sì, i nostri ospiti sono qua perché stasera ci sarà una bellissima iniziativa in Piazza Tasso, quindi ci racconteranno un po' chi sono, cosa fanno, perché sono qua e poi presenteranno un film che insomma ci parlerà di tutto, ci racconteranno, non vi diciamo nulla di più. Ah, non vogliamo dire nulla. Vai, di quello che no, vuoi. No, io non so nulla, io non voglio sentiti parlare. Sentiti libero. Speriamo che tutti ci stiano ascoltando anche dal mercato in Piazza Tasso che ha deciso di connettersi con noi tutti. La Grebana ci dice che ci stanno ascoltando tutti. Wow, fantastico. Quindi scusate anche voi per il ritardo e buon ascolto. Quindi scusate, apriamo anche le richieste musicali se volete scriverci. È un po' complesso oggi aprire le richieste musicali perché come al solito abbiamo un po' di problemi di connessione, però provateci, se qualcuno proprio ha delle richieste ci può provare, noi vedremo se riusciamo o meno a soddisfare i vostri bisogni. Ce le possono mandare su www.anche.no perché oggi sarà una puntata abbastanza intensa e quindi umorismo intaseranno le linee. Ma soprattutto scriveteci, noi faremo il possibile, se avete dei commenti quelli sicuramente li leggeremo, se avete delle domande sicuramente le faremo al posto vostro, se avete degli insulti da fare quelli dipende, forse li leggeremo, forse no. Adesso introduciamo i nostri amici francesi con una bellissima canzone scelta da loro e poi scopriremo chi sono. Metto play? Metti play, vai. Tu sens rieccoci, giusto così per rendere partecipi le nostre radioascoltatrici e i nostri radioascoltatori. Questa per noi intesi la comunità di resistenza contadina Jérôme Laronze, è la settimana francese, perché ci sono stati i nostri inviati speciali che, andando verso il Belgio, si sono fermati proprio a trovare la famiglia di Jérôme Laronze. Ma questo ve lo racconteremo nella prossima puntata. Invidiosi di questa loro fuoriuscita, noi abbiamo detto: allora anche noi vogliamo saperne un po' di più di Francia, continuare con questa connessione che abbiamo, insomma, grazie anche al nome che abbiamo scelto per la nostra comunità. E quindi abbiamo qua, insomma, questo gruppo di compagni e compagni che ci racconteranno intanto chi sono, da dove vengono e la realtà che di occupazione di un quartiere francese che portano qua a nostra conoscenza. Quindi vi lascio la parola. Intanto grazie per essere qua. Io vi saluto intanto, Albus Silente al microfono in questo momento. Sono lietissimo di presentarvi questi amici e amiche francesi, appunto, che arrivano da Dijon. Questo incontro in realtà è il frutto di un viaggio che ho fatto quest'estate, visitando il quartiere libero di Lentière. Ho saputo che avevano autoprodotto un film e oggi sono appunto qui in Piazza Tasso per parlarne. E niente, abbiamo approfittato dell'occasione per chiedergli un po' quali sono, cioè per sapere un po' di più rispetto a questa occupazione. E quindi intanto volevamo chiedervi un po' qual è la storia del quartiere libero di Lentière, quante persone vivono e da quanto esiste, dove si trova, insomma, così. Donc, la question est un peu de savoir l'histoire du quartier libre de Lentière, le nombre de personnes qui y vivent et qu'est-ce que les activités que vous faites sur le lieu. Bonjour. Le quartier libre de Lentière, c'est un quartier maraîcher autogéré et occupé à Dijon depuis 13 ans maintenant. C'est sur 8 hectares de terres maraîchères qui étaient laissées en friche et qui ont été occupées en 2010 à la base avec des petits jardins et du maraîchage. Allora, il quartiere libero di Lentière nasce nel 2010 da un'occupazione di 8 ettari di terra lasciati in abbandono, che sono stati recuperati appunto nel 2010 e occupati. Les Lentières, donc c'est autogéré, donc il y a plein de collectifs qui vivent sur place, il y a des habitats, il y a du maraîchage, il y a des concerts, il y a plein de choses qui se passent là-bas. Et c'est un quartier qui est ouvert sur les alentours aussi, avec des marchés et plein de choses dont on parlera juste après. Allora, quindi il quartiere libero di Lentière è un'occupazione con vari collettivi che ne fanno parte, varie persone che ci vivono, ci sono due abitazioni abbastanza grandi e ci viene portata avanti una produzione di verdura e varie altre attività che vengono svolte in collettivo e che portano anche alla creazione di mercati all'esterno, verso l'esterno. Et donc l'origine du quartier aussi, c'était contre un projet d'urbanisation de la ville de Dijon. Donc c'était des terres qui étaient historiquement maraîchères et qui étaient menacées par un projet d'éco-cité. Du coup, des bâtiments qui devaient être construits par-dessus. Et du coup, les gens se sont mis à occuper la terre pour la protéger. Ok, quindi la storia del quartiere di Lentière deriva appunto dal... erano storicamente delle terre coltivate e che però poi sono state prese, diciamo, sono state... erano sotto l'interesse del comune, insomma, per costruirci, quindi erano zone a rischio edilizia e quindi le persone hanno iniziato a occuparle per poterne fare un uso diverso. Ci volete dire di più riguardo appunto al progetto edifici di che voce che la città ha interesse a edificare sul posto, se volete dirci di più riguardo a questo, e magari anche quante persone vivono lì, il fatto, cioè, anche è un posto estremamente multiculturale, insomma, se volete raccontarci anche di questo. Donc si vous avez si vous pouvez parler un peu plus du fait qu'il y a des projets pour construire sur les terrains que vous avez occupés et combien de personnes vous êtes à occuper les terres et ça. Et le côté multiculturel, s'il y a des personnes qui viennent d'autre part aussi, ça. Alors, il y a entre personnes qui habitent sur le quartier, mais il y a beaucoup plus de gens qui viennent pour participer à plein de monde sur le quartier. Mais je participe à des moments de maraîchage, de marché, de concerts ou d'autres événements ou le film. Et du coup, il y a plein de gens qui viennent. Participer à la vie sur le quartier qui habite à Dijon ou aux alentours. Et du coup, la vie aussi multiculturelle, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent de plein d'endroits différents qui participent au quartier. Il y a des gens qui viennent d'Europe, d'Amérique latine, d'Afrique, etc. Et ça fait qu'il y a plein de langues, plein de cultures qui se mélangent. Et c'est très facile en fait de se rencontrer aussi. Simplement attraversant il quartier. Allora, nel quartiere di Lantillière, che è fuori Digione, in pratica ci sono tra le 80 e le 100 persone che vivono fisse sul posto, ma c'è un enorme apporto esterno di tante persone che vengono e lavorano ai progetti o direttamente nel coltivare questi 8 ettari, oppure nella progettazione e la creazione, per esempio, del film. Delle altre varie attività che ci sono, per cui questo crea un ambiente molto multiculturale, perché arrivano persone da vari posti d'Europa e dall'America Latina, per cui è molto facile a quel punto creare, insomma, che diventi un terreno di incontri anche internazionale, diciamo. Ma quindi avete proprio anche un progetto agricolo? Cioè coltivate delle terre? La question è, est-ce que donc vous avez est-ce que vous avez des dynamiques agricoles est-ce que vous cultivez directement les terres? Salut. Eh bien oui, tout à fait, nous cultivons les terres. Salut. Allora, salve, sì, effettivamente coltiviamo la terra, questi 8 ettari. Oui, du coup, l'occupation de Lantillière, elle a commencé avec une grande manifestation organisé par à la fois des collectifs paysans et à la fois des collectifs de squatteurs. Et tout ça ensemble, du coup, ça a donné l'occupation de ce qui a été un potager pendant 2 ans. Les Lantières, c'était surtout un potager. Allora, soprattutto si trattava di un orto inizialmente che era gestito da dei collettivi agricoli già presenti sul posto, o anche da dei collettivi di squatter di zona che si sono uniti, e quindi sì, la prima idea è stata quella di coltivare le terre. E alors ce potager, il existe encore aujourd'hui, c'est comme le plus vieux potager collectif de l'endroit, quoi. Il s'appelle le Podcol, et c'est surtout des habitants habitantes de la ville de Dijon qui viennent une fois par semaine le dimanche pour cultiver ces terres là. Quindi allora il primo progetto, il più antico, diciamo, è proprio il progetto delle coltivazioni e dell'orto, e sono soprattutto persone che vengono da Digione, quindi dalla città, e che insieme in maniera collettiva portano avanti questo progetto. E après il y a d'autres dynamiques agricoles, quoi. Il y a un jardin dont je peux plus parler parce que j'en fais partie, qui s'appelle le jardin des maraîchères. Et qui est un jardin où on est cette année on était 8, en général on est 8 personnes à s'engager sur une saison, un an. Allora, poi c'è anche un altro progetto, che è quello di un orto, appunto un orto delle verdure, che viene preso in carico ogni anno da 8 persone, che lo portano avanti per tutta la stagione, a rotazione, se ho capito bene, sì, a rotazione. Là. Et depuis quelques années, on essaye de faire du maraîchage antispéciste, donc sans utiliser de produits de l'exploitation animale, sans utiliser de fumier, sans tuer les ravageurs. Voilà, et on essaye aussi de le faire sur sol vivant, donc sans labour, avec le moins de mécanisation. Inoltre, allora, questo orto viene portato avanti con tecniche antispeciste, non so se in italiano questo rende, comunque il senso è che non vengono usati prodotti animali e non viene lavorata la terra il meno possibile e si tenta di non usare concime anche, di nessun tipo, concio. Et nous, ce marché-là, ce potager-là, on vient alimenter un marché une fois par semaine, un marché à prix libre qui est ouvert sur l'extérieur, quoi. E quindi questo porta poi alla creazione di un mercato ad offerta libera, che è un mercato che viene appunto portato avanti con la produzione di questo quest'orto e per il pubblico, insomma, diciamo, per l'esterno. Voilà, et un peu la dernière chose que j'aime beaucoup dans ce jardin collectif, c'est qu'on a une grosse réflexion ensemble sur les dynamiques de pouvoir, sur les personnes qui savent, les personnes qui viennent pour apprendre. Et comment on aplatit ça le plus possible. Et je trouve que c'est, en tout cas, c'est le seul jardin collectif un peu de la mouvance autonome de gauche que je connais où il n'y a pas forcément le mythe du travail et de se sacrifier pour son potager. Allora, inoltre, insomma, nell'organizzazione di quest'orto viene portata avanti la visione del tentare di spianare le opposizioni che ci possono essere tra quelli che sanno e che hanno l'esperienza magari da lungo tempo e quelli che arrivano per imparare, quindi si tenta di lavorare su una comunicazione pacifica riguardo ai temi, insomma, dell'orto e questo è, diciamo, l'aspetto più interessante. E poi, sì, è che si tenta appunto anche di abbandonare l'idea del lavoro come qualcosa che deve per forza portare a una dinamica di sacrificio e di pesantezza, ma si tenta più di, insomma, di avere un altro tipo di visione. Voilà, mais à la fin on a quand même vraiment une production de légumes. Ma alla fine riescono comunque a produrre abbastanza, tanto da fare un mercato, per cui. Voilà, et un peu la troisième grosse dynamique collective du quartier, c'est un collectif où ils produisent 3 légumes en grande quantité, qu'on appelle les grandes cultures. Et là où l'idée c'est d'avoir du coup des légumes à pouvoir donner pour des bouffes de soutien, pour des manifestations, pour des choses comme ça, et aussi pour pouvoir manger nous l'hiver dessus, quoi. Ils font des courges, des poireaux et des patates, et c'est vrai que l'hiver on mange des courges, des poireaux et des patates, quoi. Inoltre c'è altri 3 orti che si chiamano grandi orti, diciamo, che sono produzioni più ampie per un po' per l'autosostentamento del posto, quindi ci mangiano quelli che vivono nella comunità e l'altro obiettivo è usare queste grandi produzioni per rifornire pranzi sociali, autofinanziamenti e eventualmente manifestazioni o eventi che possano aver bisogno di cibo. Ecco, quindi quest'anno hanno prodotto zucche, patate e porri e questo hanno mangiato e hanno portato, diciamo, nei vari collettivi, nei vari eventi. Voilà, et après la dernière dynamique de maraîchage, c'est plein de parcelles individuelles ou sur lesquelles il y a 2 ou 3 personnes, comme un peu des petits jardins ouvriers, on dit en France, et où là, du coup, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont un petit jardin sur les lentières, mais où là, du coup, il n'y a pas de... Enfin voilà, a priori, personne n'utilise des pesticides, par exemple, mais en fait, il n'y a pas un contrôle de ce que font les gens, c'est leur petit jardin, quoi. E l'ultima situazione a livello di orti che esiste alle Lentillières è la distribuzione di terra per circa 100 piccoli appezzamenti che vengono gestiti da 2 o 3 persone in maniera autonoma, senza un controllo dall'alto e che non usano pesticidi o materiali inquinanti, ma che non vengono gestiti dall'intera comune, ma sono appezzamenti dati a persone che vogliono coltivarsi un orticello. Voilà, et tout ça, donc tous ces jardins sur la surface des 8 hectares qui sont squattés, c'est à peu près 4 hectares. E questo per un'ampiezza circa di 4 ettari, ossia circa la metà dell'intera occupazione, sono 8 ettari. Beh sì. Ottimo. Sentite, una cosa che a me aveva stupito abbastanza quando ero venuto a trovarvi è che voi avete scelto di fare un mercato vendendo i vostri prodotti ad offerta libera, quindi non vendendoli ma offrendoli in base, diciamo, a quello che le persone potevano dare per le verdure. Volevo sapere un po' perché avete scelto di fare questa cosa e quali sono le motivazioni. Allora, la question c'est le marché et le prix libre et comment vous êtes arrivé à ça, pourquoi, et voilà. Ciao, buongiorno. Alors le prix libre, c'est ce qu'on pratique dans toutes les composantes de toutes les activités présentes sur le lieu, pas uniquement sur le marché, mais c'est une volonté qui est anticapitaliste, qui est dans la volonté de pas marchandiser ce qu'on fabrique, ce qu'on tente ensemble, et c'est que tout soit accessible le plus possible à tout le monde. Allora, l'idea di usare l'offerta libera come sistema base non solo del mercato delle verdure, ma anche di tutto il sistema interno della comunità, fa parte insomma, è un'idea anticapitalista che aiuta a non per forza a non seguire rotte di mercato ufficiale, ma a tentare di appunto di sottrarsi anche a una dinamica di pressione che ci può essere dall'esterno, diciamo, usando l'offerta libera come strumento di autonomia. Ottimo, chissà cosa succederebbe in Piazza Tasso, in Piazzeria della Costa, se provassimo a sperimentare anche noi questa cosa dell'offerta libera, ma lo chiederemo, chi lo sa, ai nostri produttori e alle nostre produttrici che ci stanno ascoltando, se qualcuno vuole scriverci con qualche suggestione. Adesso io proporrei, se siamo tutti d'accordo, un intervallo musicale e poi andiamo avanti con questa meravigliosa intervista. Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Muro A, Un tasa maga pun kutel un muro, dio me sento un cosgardo in kutel pichu. O muro, chi li ho te fai me in putu, e pao po pao po capalo selu. O muro, chi li ho te fai me in putu, e pao po capalo selu. Kutte kutte kutte, kutte kutte muro, kutte kutte kutte, kutte kutte muro. Un tasa maga. Muro, siamo, rieccoci tornati. Sento qualcosa che vibra. C'è un casino infernale, quindi chiediamo al nostro Palmi di risolvere questo problema. Allora, e visto che insomma questa cosa dell'offerta libera, insomma, ha suscitato un grande confronto e dibattito intanto qua fuori onda, noi vi chiediamo se avete voglia, insomma, di approfondire un po' come funziona, come vi state trovando, se sono tutti d'accordo. Donc c'est aussi parce que on est dans une situation de squat, d'occupation illégale, et qu'on n'a pas la pression financière de l'État et des institutions qu'on peut se permettre ça, et on peut expérimenter. C'est aussi un lieu où du coup on expérimente beaucoup de choses. Allora, è legato l'idea di applicare il prezzo, l'offerta libera è legata al fatto che loro, essendo uno squat, essendo un'occupazione, non hanno pressioni finanziarie particolari, ossia non pagano affitti, bollette e quant'altro, e quindi questo li sottrae da una dinamica di, appunto, di dover per forza tirare fuori dei soldi ogni mese, e questo permette loro di sperimentare un sacco di cose, tra cui questa cosa dell'offerta libera che appare interessanti. C'est aussi un lieu où il y a beaucoup d'habitations, donc il y a une centaine de personnes qui habitent, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, et des gens qui habitent dans différents types de logements. Alors, poi, sul posto ci sono differenti tipi di abitazioni, ci sono circa tra 80 e 100 persone che vivono in questo quartiere. Et donc c'est un lieu de solidarité aussi en tout genre, parce qu'en fait il y a plein de gens qui viennent parce qu'ils choisissent, des gens comme moi par exemple, je suis venu parce que je voulais apprendre le maraîchage et soutenir la lutte. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Allora ci sono persone che vengono per scelta, ossia vengono a vivere sul posto perché hanno scelto di sperimentare la coltivazione di verdure e allo stesso tempo sostenere la lotta, e ci sono anche varie persone che vivono lì perché non hanno altra scelta. Par exemple, c'est le cas de la moitié des habitants qui sont des personnes exilées, qui sont là parce que elles cherchent un abri, un lieu pour rester le temps des demandes de papier par exemple, et même parfois qui restent, qui trouvent là une communauté de vie et d'accueil et d'aide, d'entraide, parce qu'il y a des gens qui viennent de leur pays aussi, qui peuvent les aider particulièrement. Allora ci sono anche, allora qui da noi si dice migranti, e sono persone in esilio, persone che stanno comunque risolvendo la loro situazione burocratica in Francia, che si appoggiano nello squat proprio in attesa di sistemare la loro situazione, e che poi magari trovano anche terreno fertile per rimanere e continuare il progetto insieme alle persone che vivono lì. Donc ça fait partie aussi de tout ce qu'on fait, qui est basé sur l'autonomie, quoi. On cherche à se rendre autonome, à s'entraider en fait le plus les uns les unes les autres, et donc arriver à faire ensemble ce que dans la vie de tous les jours, enfin dans le reste du monde, on ne pouvait pas faire tout seul. Quindi il principio di base è l'autonomia, per cui tutto deve essere diciamo separato e fuori dal controllo delle istituzioni dello Stato, e in questa autonomia si può affrontare e sviluppare un sistema di mutuo aiuto, per cui le persone, a differenza del resto del mondo, lì riescono a darsi una mano a vicenda e appunto a creare anche situazioni di solidarietà che fuori non si trovano. C'est un lieu aussi de lutte, un lieu d'organisation politique. Donc déjà, d'abord sur la défense des terres agricoles en ville, c'est le point de départ du lieu. Mais aussi, ça a agrégé tout un tas d'autres luttes d'aujourd'hui, anticapitalistes, féministes, anti-racistes, etc. Enfin, je ne vais pas toutes les nommer. Mais disons que c'est un lieu où on peut s'organiser et où on peut travailler à l'émancipation des peuples e delle differenti comunità. Allora, il luogo ovviamente nasce da una lotta, che è quella della difesa delle terre coltivabili intorno alle città, perché è la storia del posto, ma ovviamente poi fa da punto di aggregazione per tanti altri tipi di lotte, quali vari eventuali lotte antirazziste o femministe o comunque di movimenti o minoranze che hanno bisogno di un luogo per ritrovarsi e per aggregarsi, e quindi questa è anche la sua funzione, insomma, di apertura all'esterno. Sans oublier, comme disait ma camarade tout à l'heure, il y a la moitié des terres qui sont cultivées, et donc sur le reste, une partie est habitée par des humains, Et puis le reste, on va dire que c'est des parties qui sont habitées par des autres que les humains, et donc qui sont laissées en friche, donc qui poussent de manière spontanée depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, et où se développe une biodiversité sauvage et spontanée. E allora, degli 8 ettari ci sono 4 ettari, come diceva la ragazza prima, che sono coltivati con i vari progetti, e gli altri 4 ettari sono in parte abitati, e comunque una buona parte degli 8 ettari viene lasciata allo stato di abbandono in modo che ci ricresca la fauna e la flora spontanee, e in modo anche che ci possa essere, diciamo, un ritorno della fauna locale e di tutte le specie spontanee e selvatiche. Bene, grazie, fighissimo. Sì, davvero, grazie anche della panoramica su un po' quali sono le idee che animano il progetto. E visto che parlavate adesso anche delle case, quando sono venuto sono rimasto molto colpito dal posto, che appunto essendo in città sembra veramente di entrare in un mondo a parte, perché sei immerso veramente nella natura, appunto come dicevate viene lasciato anche incolto, e la cosa ancora più bella per me è vedere ogni tanto in mezzo a questo bosco di roba che ricresce delle casettine che spuntano, fatte tipo in biodilizia, in legno, magari recuperando anche, non so, vecchi furgoni, così. E appunto poi so che avete appena inaugurato una nuova mensa che è stata autocostruita, sempre con un cantiere fatto da voi. E, insomma, volevo chiedervi un po' appunto di queste, insomma, delle abitazioni e del fatto che spesso vengono costruite in maniera autogestita con dei cantieri collettivi, e quindi anche il lavoro delle persone che vengono a trovarvi per aiutarvi così spontaneamente, ecco. Ce qui l'a étonné, lui, dans son voyage, Phil, c'est de voir au milieu de cette partie spontanée qui repousse, de voir des petites maisons et des constructions construites en autonomie par vous. Et donc, il voulait savoir justement comment vous avez développé l'idée du chantier autonome et autogéré. Waouh ! Je ne sais pas si je peux répondre vraiment à cette question-là. Mais en tout cas, je peux raconter moi ce que je vois ou ce que je vis aux Lentières, quoi. Mais alors là, historiquement, de comment on a développé ce truc de chantier en France, je sais pas. Peut-être que c'est parce qu'on a des aides sociales et du coup on achète des outils et du coup on fait du chantier. Peut-être pas, je sais pas. Allora, lei dice appunto storicamente come si siano sviluppati i cantieri autonomi e autogestiti è una cosa a cui non riesce proprio a rispondere, però dice che loro sono facilitati anche dal fatto eventualmente di avere degli aiuti sociali che gli permettono di comprare materiali e attrezzi, cosa che qui in Italia non c'è data. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense le chantier aux Lentières et ailleurs, c'est au moins aussi important que le maraîchage, quoi. Et que c'est vraiment un gros truc de l'autonomie, de c'est bien de savoir faire pousser des légumes, mais c'est aussi vraiment bien de savoir choper l'électricité, fabriquer ta cabane, tout ça, quoi. Et du coup, c'est vrai que quand tu viens habiter aux Lentières, bah, même si t'as jamais touché une perceuse de ta vie, tu vas te retrouver à faire du chantier quasiment tous les jours. Allora, dice anche che il cantiere autonomo e autogestito lì alle Lentières è altrettanto importante di tutto quello, di tutta la parte, diciamo, di coltivazione e di lavoro della terra, perché appunto sono in continuo, sono spesso e sempre in cantiere, e c'è sempre modo di lavorare manualmente non solo la terra, ma anche appunto alla costruzione di edifici, casette o appunto attacchi elettrici o impianti e quant'altro. Et la question qui posait, c'était sur la nouvelle construction que vous venez de finir. Alors, il y a comme deux nouvelles constructions un peu collectives aux Lentières, en plus de tous les gens qui sont toujours en train de faire du chantier sur leur maison, quoi. Et c'est une grande maison qu'on appelle maison commune, où là, la dynamique de chantier, c'est plutôt qu'il y a une école de charpente nomade qui nous a proposé de nous faire une charpente. On a dit oui, d'accord, pas de souci. Et depuis, il y a 4 personnes qui s'occupent de finir la maison, puisque l'école de charpente, elle a juste construit la charpente, quoi. Oltre al lavoro sulle singole case che ognuno porta avanti per conto suo, ci sono due cantieri comuni, di cui uno in particolare ora è attualmente in lavorazione e deriva dall'arrivo di una scuola di carpenteria nomade che si è momentaneamente sistemata sul posto per portare avanti la costruzione di questa grand maison, quindi grande casa, insomma uno dei due edifici collettivi, e che quindi attraverso la costruzione lì poi insegnano anche alle persone che vivono lì, penso, varie nozioni di carpenteria. Oui, voilà. Genre les personnes qui du coup maintenant ont pris en charge ce chantier, elles s'occupent de faire le sol, les murs, les fenêtres. Et du coup, c'est quatre personnes qui ont plus que 35 ans quand même et qui ont déjà plein d'expériences de chantier et qui sur ce chantier spécifiquement, elles veulent vraiment le faire bien quoi. Donc elles vont chercher des personnes ressources. À chaque fois, elles vont chercher des personnes ressources qui plutôt ne sont pas des Mexis, et aucune de ces quatre personnes n'est un Mexis aussi. Et du coup, une fois qu'elles ont ces personnes ressources, elles proposent des semaines de chantier ouvertes où tu peux venir, voilà, tu dis, t'envoies un mail pour dire je suis intéressée, je viens. Et là, du coup, pendant la semaine de chantier, tu vas apprendre à faire une des étapes de la maison un peu de façon propre et bien faite, quoi. Allora, è anche la questione del cantiere, l'ultimo e quest'ultimo cantiere portato avanti da questa carpenteria nomade ha una visione antimacista, per cui vengono l'ottica è quella del cercare di lavorare e insegnare la carpenteria in una maniera non sessista e non macista, e per cui le persone che ci lavorano vengono appunto educate a fare un lavoro pulito e fatto bene, anche senza tutta la dinamica classica che si può usare, che si può trovare invece nei cantieri classici italiani, soprattutto i muratori. Scusate, un attimo di problemi tecnici. Ogni tanto abbiamo dei problemi tecnici, ci scusiamo soprattutto con le nostre ospiti e i nostri ospiti perché non siamo così ancora preparati e attrezzati in questa nuova regia, però speriamo che il tutto si possa risolvere, ma ci abbiamo il nostro Palmi super attivissimo. Io credo che d'ora in poi si sentirà un pochino meglio. Non la tengo. Intanto, intanto vabbè, chiediamo insomma al nostro Albus che è stato lì, se ci sono altre domande, se vuoi. Je crois que j'avais tout dit. Ce truc de vraiment c'est du chantier un peu bien fait quoi, dans les règles de l'art et parfois et de pas passer par des mecs. Allora, la compagna qua tentava di sottolineare il fatto che questi cantieri vengono portati avanti in maniera, cioè tentando di fare un lavoro che sia quello ad arte, cioè in maniera precisa e diciamo finita perfettamente, quindi non c'è serietà, non è lasciato, esatto, al caso. Esatto, è un cantiere che viene portato avanti in maniera molto seria e soprattutto basato su delle regole appunto soprattutto antimacista. Voilà, et l'autre chantier collectif du moment au Lentière qu'on a fini, ça y est, qu'on est en train de finir, c'est un réfectoire, donc une salle à manger pour une cantine. Allora, l'altro cantiere che stanno portando avanti in maniera collettiva è una mensa collettiva, una grande, diciamo, un refettorio dove stanno lavorando appunto per poter dare a mangiare a tanta gente. Voilà, et là c'est vrai que le groupe qui fait des chantiers sur cette cantine, c'est des gens qui ont moins d'expérience de chantier, qui sont plus jeunes et qui ont fait ça avec plus du matériel de récup trouvé à droite à gauche quoi. Quindi quest'altro cantiere invece è stato portato avanti da persone un po' più giovani, magari senza la stessa esperienza, e che hanno privilegiato magari materiali di recupero e un lavoro fatto più, diciamo, improvvisando di più e meno, diciamo, meno perfezionista. On peut dire ça comme ça, et du coup là la dynamique de collectivisation, on va dire, c'était plutôt des invitations. Mais quand les gens viennent faire le chantier, en fait, ils viennent aussi réfléchir à comment est-ce qu'on fait une terrasse. Ah, on a fait une récup, on a 40 portes. Bon, bah, on va faire une terrasse en porte, par exemple. Quindi in questo caso appunto chi viene invitato a partecipare a questo cantiere più improvvisato e basato più su materiali di recupero è portato anche a riflettere a come portare avanti la costruzione, quindi non solo imparare come portare avanti una costruzione in maniera precisa ad arte, ma anche come improvvisare con i materiali che si reperiscono sul momento, fare il lavoro che si deve fare, quindi anche se ci sa 50 porte si tenterà di fare il lavoro che si deve fare con quelle porte, non per forza d'arte. Bon voilà, et un petit message si jamais il y a des meufs ou personnes queer italiennes qui nous écoutent, franchement faites du chantier sans les mecs, ça change la vie. Il messaggio che viene mandato è che se ci sono donne o queer o che pensano di non poter fare cantiere o non poter fare lavori di muratura, che lo facciano perché cambia la vita. Bello, grazie, grazie davvero. Ma sentite, io verrei al motivo per cui poi vi trovate anche qua a Firenze, perché appunto avete portato con voi un bellissimo film autoprodotto e tra l'altro ci saranno tre proiezioni qui in città a Firenze. E niente, se avete voglia di raccontarci qualcosa su questo film, da dove è nata l'idea, com'è stato realizzato, che cosa racconta, ecco, siamo molto curiose. Alors, pourquoi vous êtes là? Donc, c'est l'argument principal. Où est-ce que vous allez présenter le film et de quoi il s'agit? Alors, on est en Italie depuis quelques jours. On a déjà fait quelques dates. En fait, on a tous participé ici au film collectif des Lentières qui s'appelle Une île et une nuit. Et on a commencé une tournée cet été et on la poursuit donc pour quelque temps en Italie. Allora, i ragazzi sono qui a presentare in tournée, diciamo a presentare questo film in Italia da qualche giorno, dove faranno varie proiezioni e sono tutti hanno partecipato alla produzione di questo film sullo squat, insomma, sulla comune. E che si chiama un'isola e una notte, une île et une nuit. Et du coup donc c'est un film de fiction, donc c'est pas un documentaire. Et ça a pris 2 ans à le faire avec environ 300 personnes qui ont participé de près ou de loin. Allora, intanto non è un documentario, quindi è un film che ha visto la partecipazione di almeno 300 persone. Et je vais peut-être passer la main pour l'histoire. Et riguardo alla storia, passa la parola al compagno. Donc l'idée c'était de faire un film tous ensemble qui puisse laisser une trace de ce lieu à ce moment-là et qui soit la plus belle possible, donc qui soit un film de cinéma, vraiment qui soit beau à regarder et que ce soit un processus collectif, qu'on raconte ensemble nos histoires du lieu, pourquoi on est là, pourquoi on se bat. Allora, l'idea è stata quella di produrre un film che fosse proprio un film bello da vedere, nel senso di voler, insomma, hanno tentato di fermare il momento in cui si trovano adesso, ossia dove sono arrivati ora con Les Lentillères, e tentare di spiegarlo attraverso un film che fosse anche proprio un appunto piacevole da vedere. Donc c'est un film qui part des gens, qui vivent aux Lentillères ou qui participent dans ce lieu. Et et qu'on a écrit tous ensemble et qu'on a tourné petit à petit sur les 2 ans. Allora, quindi si tratta di un film che hanno costruito e portato avanti tutti insieme e che di cui la produzione è durata 2 anni e che vede appunto la partecipazione collettiva di tutti quelli che ci vivono e che hanno voluto partecipare a questa creazione. Ce qui fait qu'il y a 11 langues qui sont parlées dans le film et il n'y a pas de sous-titres. Quindi ci sono nel film 11 lingue che vengono parlate, però non ci sono sottotitoli. Oui, c'est à l'image donc de ce lieu où en fait parfois on ne se comprend pas et parfois il faut trouver d'autres manières de se comprendre. Quindi riflette bene la situazione del posto dove a volte non ci si capisce, a volte bisogna trovare altre vie di comunicazione. Faire ce film, c'était aussi un moyen de se rencontrer entre différentes communautés qui vivent sur le lieu. et qui font pas forcément beaucoup de choses ensemble parce qu'elles sont là pour des raisons différentes comme on disait tout à l'heure. È stato anche un'occasione per poter far incontrare le varie comunità e le varie diciamo situazioni che si trovano a convivere sullo stesso posto che non per forza si conoscono e interagiscono nel quotidiano perché si occupano di situazioni e progetti diversi, però con il film invece appunto c'è stato un grande insomma una è stata occasione di rincontro e diciamo organizzazione comune. Ouais, c'est aussi un film qui aurait été complètement différent s'il avait été fait 2 ans auparavant ou 2 ans plus tard. C'est vraiment c'est un film qui s'est fait au jour le jour, avec les saisons, avec les activités et les événements de ces 2 années. È un film che riflette esattamente il momento in cui è stato girato, ossia questi 2 anni. Se fosse stato fatto 2 anni prima o 2 anni dopo non avrebbe reso la stessa cosa, perché appunto viene a fotografare proprio il percorso di questi 2 anni in tutto quello che è stato fatto alle Antilles. Et c'est aussi une expérience de cinéma collectif qu'on a essayé de changer un peu les habitudes du cinéma de fiction traditionnel et donc de casser la hiérarchie qui est tout le temps à l'œuvre dans le cinéma industriel et d'essayer de faire un film de manière plus horizontale où on peut tous et toutes participer à tous les moments, toutes les étapes de création e a tutti i livelli e a voilà, tutto fare insieme. Allora, è stato anche un esperimento cinema rivisto non nella sua forma classica, ossia gerarchizzata come diciamo il cinema è ufficialmente, invece in questo caso è stata una partecipazione orizzontale e collettiva in cui tutti hanno potuto partecipare ai vari stadi, ai vari momenti di creazione del film e per cui anche attraverso quest'idea, questo progetto sono state appunto rotte delle barriere, delle gerarchie che vengono invece spessissimo applicate nel mondo del cinema. Voilà, moi je vais juste raconter vite fait que du coup c'est une comédie musicale et que pour les gens qui aiment pas forcément regarder des films mais qui aiment bien découvrir plein de musiques différentes, ben ça marche aussi de venir voir Une île et une nuit qui passe du coup à 20h ce soir à la Piazza Sasso. Allora, quindi di fatto è una commedia musicale, quindi anche chi non apprezza il film classico può divertirsi perché c'è un sacco, insomma, sperimentazione musicale, ricerca musicale, quindi non solo cinematografia e quindi verrà proiettato ora alle 8:30 a Piazza Sasso. Quindi accorrete numerosi in Piazza Sasso, ci saranno insomma i nostri compagni francesi ad aspettarvi e anche un ricco apericena contadino prima della proiezione, quindi vi aspettiamo e se vai. Sì, on a un site internet qui s'appelle piratesdelantières.net, donc c'est pirate P-I-R-A-T-E-S D-E-S-L-E-N-T-I-L-L-E-R-E-S. Et c'est parce que sur ce site, en gros, il y a une carte avec les dates qu'on va faire. Et donc, il n'y a pas que à Firenze, il y a aussi à Mondeggi, à Bologne, à Milano. Bon, voilà, n'hésitez pas. Allora, il film Un'isola la notte verrà proiettato non solo a Firenze ma anche a Bologna, a Milano e a Mondeggi e c'è un sito di riferimento che è I Pirati delle Lentilles, la traduzione e lo spelling in francese è, in realtà si scrive appunto Pirates des Lentilleres, quindi così .org e .net potete trovare ulteriori informazioni. Lo posteremo, lo linkeremo sulla puntata di oggi così tutti potrete trovarlo facilmente. Lentilleres. Comunque facciamo scrivere a loro, Palmi, non ti preoccupare. Trovate il sito sul sito di Jérôme Laronze nel post di questo evento, quindi potete andare lì per trovare il sito, ecco. Bene. Grazie mille, è stata un'oretta, quasi un tre quarti d'ora veramente intensi. Vai. E solo per dire che la ultima canzone si dice, è anche nel film. Ah, quindi è una canzone Tuareg, di un popolo del deserto, come dici? Esatto. Sì, Tuareg. Quindi che composa una grande parte degli abitanti dell'Antilles sono Tuareg. Quindi in anteprima per voi una canzone, potrete poi riascoltare. Vi spoileriamo il finale. No, è solo una canzone. Per il finale venite oggi in Piazza Tasso o in tutte le date che insomma proporranno qua nei dintorni da Mondeggia, Bologna, e andate a esplorare il sito. Grazie, davvero. Grazie mille, siamo molto grate. A presto. Ok, eccoci tornati. Abbiamo appena salutato le compagne e i compagni, le amiche e gli amici bellissime. Digione. È stata una super intervista, poi ci darete anche dei feedback. Che ne pensi, Takeshi? Incredibile, fa venire voglia di imparare il francese soprattutto, eh? Davvero, davvero. Poi sono venuti molti spunti, insomma, su cui ci si potrebbe anche confrontare, creare un po' di dibattito sulle loro pratiche. E, no, niente, veramente da stimare e da farsi insegnare, sì. E se le volete conoscere, le beccate dopo in quel lontanissimo posto di Piazza Tasso all'aperitivo, alla proiezione del film non documentario che parla appunto del loro spazio. E a questo punto, Palmiro, che dire, dopo questa bellissima canzone Tuareg vi lasciamo un'intervista che ci ha passato la Clio sugli orti sociali. Grazie, Clio. Di Livorno, e ci vediamo fra 8 minuti e 40. Voilà. Allora, se ci racconti anche solo brevemente, perché il 20 c'è un presidio sotto il comune di Livorno per la difesa degli orti urbani di via Goito, facendo anche un pochino la storia, perché tieni conto che nel tempo probabilmente questa cosa l'abbiamo persa in quel di Firenze e quindi, certo, se ce la riassumi. Allora, gli orti urbani di via Goito è un'esperienza che oggi festeggia, diciamo, 10 anni di vita, no? Era l'ottobre del 2013 quando questa area, che sono circa 6 ettari, in una zona abbastanza centrale di Livorno, comunque all'interno, diciamo, proprio della città, quest'area fu occupata dall'allora Comitati Autonomi dell'ex caserma occupata, una realtà, diciamo, che tuttora è presente, il centro sociale qui di Livorno. Nell'ottobre 2013 questo gruppo di lavoratori disoccupati, di diciamo, movimenti sociali, occupò quest'area perché? Perché era un'area che era stata ceduta a dei privati ormai da tanti anni e che però si era miracolosamente salvata, diciamo, da quelle che erano le speculazioni edilizie. Bisogna tenere presente che questo è un quartiere abbastanza ricco di Livorno, è una zona residenziale, diciamo, abbastanza ricca di Livorno. Si era miracolosamente salvata però c'era un progetto di cementificazione importante, quindi di costruire degli ennesimi palazzi, ennesime villette. Peraltro in quest'area qui ci sono già delle piccole costruzioni che probabilmente, insomma, sono state costruite in maniera non del tutto trasparente, poi magari negli anni hanno ricevuto dei condoni, però insomma la situazione era abbastanza, si rischiava, insomma, che ci fosse questa cementificazione. La proprietà era di una cooperativa legata alla Lega delle Cooperative, si chiamava CLC, Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni, e tra l'altro questa cooperativa aveva tutta una serie di appalti con il comune, insomma lavorava proprio nel pubblico. Da allora è nata questa occupazione e da lì è nato il progetto di orti urbani, quindi da quel momento si è creata un'assemblea, un comitato che poi ha avuto, diciamo, storia a sé, ovviamente sempre legato alle realtà sociali di lotta antagonista di Livorno, però insomma si è sviluppato in questi 10 anni cambiando anche a volte un po' pelle, però rimanendo sempre fedele a quello che è il progetto iniziale, quindi impedire che in quest'area verde ci si possa in qualche maniera costruire. Ci sono più di quasi 120 orti urbani, in questo momento c'è un'assemblea e un'area comune dove vengono fatte le iniziative, dove vengono fatte delle feste. Arriviamo al 20 di ora, dal 20 ottobre, perché facciamo questa manifestazione? Perché a luglio c'è stata l'approvazione della proposta di nuovo piano strutturale. Tutte le amministrazioni passate in qualche maniera avevano sempre in qualche modo spinto per confermare la cementificazione in questo spazio. e purtroppo anche l'attuale diciamo attuale amministrazione comunale a targa PD in questa fase, nonostante delle prime come dire rassicurazioni, ha invece confermato la possibilità di costruire. Ora, questo è un terreno in parte edificabile, però si sa bene che non basta, diciamo, l'edificabilità, poi ci vuole come dire anche l'approvazione di un progetto, la possibilità concreta dal piano regolatore anche quanto, come, quanti metri cubi. E noi ci auguravamo, insomma, che ci fosse dopo tutto questo tempo un cambio di passo. Questo cambio di passo non c'è stato e quindi per l'ennesima volta ci troviamo a dover difendere quest'area. Già in passato c'era stato un tentativo di entrare con la forza, quindi di entrare con le ruspe per iniziare i lavori del cantiere, un tentativo che è stato impedito fisicamente poi dagli ortolani, dai comitati, da chi è presente, che ci siamo proprio sopra, cioè abbiamo impedito in qualche maniera alle ruspe che proseguissero i lavori. Tra l'altro c'è stato un processo che si è concluso recentemente, fortunatamente, con l'assoluzione di tutti gli imputati. E quindi è molto molto importante ribadire all'attuale amministrazione che noi qui non vogliamo neanche un centimetro quadro di cemento, non è più tempo per cementificare, cioè non è solo una questione, cioè voglio dire il cambiamento climatico, la questione ambientale oggi più che mai è sotto gli occhi di tutti, no? C'è l'urgenza di salvare fosse veramente anche un centimetro quadro. Cioè, ci sono altre aree anche vicine nel quale si può costruire perché sono già, voglio dire, urbanizzate, anzi addirittura da bonificare. Qui a 500 metri c'è l'ex deposito dei pullman dell'ATL, della vecchia società dei pullman, che sono dei capannoni abbandonati, una parte occupata da alcune famiglie, c'è cioè un'occupazione abitativa dentro, però poi c'è tutta un'area che dovrebbe essere bonificata. Se devono proprio costruire, si costruisce dove c'è da bonificare, dove c'è da riqualificare, non certo a 500 metri dove c'è invece un'area verde come questa. La cooperativa è fallita. La cooperativa è fallita, c'è stato prima un passaggio a un'altra società collegata che si chiama CLC Immobiliare, praticamente hanno diviso la parte operativa. Cioè, una l'hanno salvata dal fallimento. Perfetto. E l'altra. Ok. Questa CLC Immobiliare è in liquidazione, quindi in questo momento è in mano, questo terreno è in mano a un custode giudiziario nominato dal tribunale, che ovviamente deve vendere e venderà sulla base della possibilità di costruire o meno in quest'area. È chiaro che se c'è un piano sono regolatore già state delle aste? Ancora no, che sappiamo ancora no, perché è abbastanza recente questa cosa. Però il rischio, cioè un conto, ripeto, che c'hai un comune che ti dice puoi costruire, è chiaro che lì i compratori, un conto è dire noi non siamo, questa è una cosa importante sul quale siamo stati anche molto spesso criticati, a noi qui non ci interessa di chi è la proprietà, può essere del comune, può essere privata, non ci interessa. A noi qui ci interessa che non si possa costruire. Perché il ricatto che ci hanno provato a fare un po' di anni fa, dicendo se permettete la costruzione solo nel 20%, l'80% passa al comune e insieme a voi decidiamo quello che ci vogliamo fare. E noi abbiamo sempre detto, a noi non ce ne frega nulla se va al comune, per noi può rimanere anche privato. L'importante è che non si costruisca neanche un centimetro quadro. Punto. Poi se la riesce a prendere il comune, tanto meglio. Ma a volte anche no, perché poi il comune non si sa mai, no? Cioè la concezione di verde del comune non è la concezione. Qui se uno viene qui vede che è un'area comunque, come dire, verde, no? Cioè il fatto che qui ci si faccia per dire anche un parco pubblico non è sempre detto che sia, diciamo, di per sé positivo, no? Questa è un'area accessibile a tutti, cioè il quartiere ne usufruisce. Si può passare da via Goito all'altra parte, c'è un sentiero che passa all'interno, quindi le persone del quartiere vengono, portano il cane, vengono la domenica qui, tanti del quartiere hanno l'orto, cioè deve rimanere secondo noi un'area ovviamente accessibile a tutti, ma più possibile incontaminata. Ok, dai, grazie. Grazie a Grazie a chi di Radio Wombat ha tenuto questa intervista, ci tenevamo a mandarla perché ci sembrava comunque inerente sempre di spazi cittadini, insomma, che trovano anche una vocazione un po' più sociale, naturale e vissuta proprio dalle persone. E ora mettiamo un bel pezzo musicale scelto da Palmiro, così si assume lui le responsabilità di questa scelta musicale, e ritorniamo per parlare della tragicomica stagione vitivinicola. Le responsabilità l'ho pescata dalle aggiunte di Pamela, questa canzone. Mai ascoltata. Corresponsabilità. Buon ascolto. Eccoci a Radio Contado, puntata 144, siamo sempre qui con voi, con noi e con le Che altre. bello, che bellissimo. Che gioia immensa. E abbiamo dei nuovi ospiti, oggi veramente una Davvero. Puntata ricca, tutti tra l'altro qui alla stazione, oh, questa regia nuova Questi funziona. Treni che arrivano di continuo sono una figata incredibile. Bellissimo, bellissimo. E io lascerei la parola, insomma, agli esperti di vino e vigna. Presentiamo un attimo. Allora, la nostra idea di oggi è fare un meeting radiofonico tra viticoltori, più o meno seri viticoltori, poi ci presenteremo tutti, e fare un breve racconto di com'è stata questa bellissima annata. E siamo tre viticoltori in presenza e il quarto ce l'abbiamo invece in chiamata, ma dobbiamo ancora chiamarlo. Ora Ora ci lo stiamo chiamiamo, collegando. ci colleghiamo. Vabbè, intanto presentiamo quelli che sono qua. Esatto, intanto Ci si autopresenta? Sì. Sì, ciao a tutte e a tutti, io sono Francesco e vivo a Mondeggi momentaneamente. Ciao Wombate, allora io sono Zoro e vivo a Chiasanuova. Ciao Marzio, ci senti? Ciao, forte e chiaro, forte e chiaro. Perfetto. Allora siamo al giro di presentazioni perché siamo quattro viticoltori più o meno seri e ora devi presentarci, dirci come ti chiami E dove hai la e dove vigna? hai la vigna. Va bene, allora io sono Marzio, principalmente viticoltore. Le vigne si trovano a Dicomano, in zona Frascole, quindi nel Mugello. L'azienda sono 2 ettari e mezzo di vigna, mista tra Sangiovese, Pinon Nero, Pinon Grigio e così. diciamo, questa più o meno la presentazione, poi non so se volete fare qualche domanda. Perfetto, no, poi le domande seguiranno. Diciamo, buono. Io sono la quarta e insieme alla Grebana abbiamo un piccolo pezzettino di vigna nel bellissimo Val d'Arno. E quindi, allora, potremmo partire con il primo giro di domande, che è una parola per descrivere questa annata vitivinicola. Do la parola a Francesco. Malissimo. Vabbè, io allora in questo momento parlo, sono un viticoltore, ho avuto, diciamo, per passione mia personale nel Mugello anni fa, poi per lavoro mi sono spostato alla zona di Panzano e adesso per ripassione personale sono nella zona di Grassi, Nantella, Bagnarripoli, insomma, quindi sono una decina d'ettari di vigna e gestite un po' da persone di casa, un po' da persone che ci aiutano, diciamo, fuori, insomma, chi conosce il progetto lo sa. Com'è andata quest'anno? Nel senso, vedo vigna o che faccio vigna, ormai sono un pochino di anni e non mi ricordo un'annata del genere, e quindi per essere molto sintetico, perché per lasciare spazio anche agli altri, allora, il problema principale, ovviamente, come è inutile ripeterlo, ma magari chi ci ascolta nel dettaglio non lo sa, per noi è stata la peronospora, questo fungo, diciamo, che nei periodi di maggio-giugno dà il meglio di sé e con di solito il trattamento di riferimento è il rame oppure l'olio oppure l'arancio, diciamo, per chi è più incline a non usare il rame, giustamente, però i principali trattamenti sono questi. E il nostro problema principale è stato che, a memoria che io ho, questo maggio non ci ha fatto entrare in campo fondamentalmente. Due sono stati i problemi principali per noi. La prima è proprio l'impossibilità di concludere l'operazione, la pratica agronomica che, diciamo, si fa in quei periodi, che è la scelta del germoglio, quindi la pulizia di tutti i tralci, le foglie e i polloni e i succhioni che la vigna, essendo liana, esplode, quindi devi ripulire per concederle spazio, luminosità, vento e aerazione, che è un'operazione importantissima come quella della potatura, ma che ti garantisce, mentre la potatura ti dà la forma d'allevamento, diciamo, la scelta del germoglio ti garantisce la produttività della pianta, la qualità e soprattutto la sanità, appunto, dove c'è luce e vento, funghi non albergano in qualche maniera, no? Per essere sintetici. E noi siamo arrivati un po' tardi, anche perché piovendo sempre arrivavi un po' tardi. Piovendo sempre non entravi col trattore, quindi a un certo punto per senso del dovere rispetto anche alla pratica agroecologica che seguiamo, o spendevamo migliaia di euro per bombardare la vigna di rame, il suolo di rame, e quindi spendere migliaia di euro e per poi affrontare problematiche come l'oidio successivamente, la tignola, la botrite, quindi rispendere altri soldi e fare altri trattamenti, oppure semplicemente alzare le braccia e dire: stavolta hai vinto tu. Ricordiamo che la vigna è una monocultura, quindi parlare di pratica agroecologica in una monocultura è evidentemente un controsenso, me ne rendo conto soprattutto su 10 ettari, la vita contadina ti porta a dire anche questo, insomma, quest'anno è andata così, è andata così, e quindi ci siamo arresi a questa cosa. Passo il microfono al Zoro. Ciao a tutti e a tutte, vabbè, prima mi sono presentato brevemente. Io gestisco un ettaro e mezzo di vigna in San Casciano Val di Pesa, a Spedaletto. E sì, l'annata, come ha detto prima Francesco, è stata molto difficoltosa dal punto di vista fitosanitario. Fin da maggio, quando ha cominciato a piovere, ci sono state proprio le condizioni adatte per lo svilupparsi della peronospora. Da lì a poco tempo, da che si è cominciato a propagare sulle foglie ad arrivare al grappolo o al rachide, e quindi a, proprio, a creare proprio l'essiccamento del rachide ci è voluto veramente poco. Dici io... la tua parola per descrivere l'annata. Annata meravigliosa, abbiamo raccolto tantissimo, però no, no vabbè, è andata malissimo. Forse ho portato un po' di sfiga io. E infatti volevo arrivare anche a questo, perché qui con noi c'è Dama, che quest'anno avevamo iniziato il progetto insieme, è un po' complesso, perché siamo partiti che eravamo in quattro persone, poi io e Dama ci siamo avvicinati, visto che ci conosciamo molto bene, abbiamo provato a condividere questa esperienza dalla potatura invernale all'allevamento fino alla tragedia annunciata, preannunciata. E nulla, noi abbiamo fatto dei trattamenti con ossicloruro e idrossido di rame, con dosaggi bassi, perché come diceva anche Francesco non volevamo comunque bombardare la vigna, ma forse qualche grammo in più sarebbe servito. E sì, il tempo non concedeva di entrare in campo, poi noi abbiamo un trattore, un cingolo vecchio con una pompa, con un'irroratrice da 6 quintali a traino, quindi era anche molto difficile, la vigna non concede, specialmente se il terreno è molto morbido, di fare rotazioni, le testate strette, quindi è stato molto difficile anche dal punto di vista proprio meccanico entrare in vigna. E passiamo la parola. Sì. Ci senti, Marzio? Ciao, Marzio. Abbiamo perso Marzio. No, vi sento, mi sentite? Sì, ci sentiamo. Ciao Marzio. Allora, dici la parola per descrivere l'annata. Diciamo ansiogena. Direi. Bravo, rende. Comunque, alla fine, purtroppo, a me mi tocca dire che abbiamo perso una quantità di uva come molte persone, ma il bilancio finale alla fine è abbastanza positivo, cioè nel senso, sembra strana ogni cosa, chiaramente dobbiamo dire che siamo tutti su territori diversi e quindi anche un giorno di pioggia da una parte potrebbe non essere da quell'altra. Noi siamo riusciti a entrare, abbiamo fatto circa 12 trattamenti, cosa che non facciamo mai, ma generalmente sono 12 trattamenti, sono nella media delle aziende che fanno viticoltura. Siamo riusciti a stare comunque sotto i 3 kg, 2 kg e mezzo di rame. Usiamo rame, usiamo olio essenziale d'arancio, abbiamo usato anche altri adesivizzanti come essenze di pino e via dicendo. Quindi aumentando un po' i costi dei trattamenti e aumentando i trattamenti, quindi aumentando anche i costi per quanto riguarda il gasolio, per quanto riguarda il tempo. Però siamo riusciti, 12 trattamenti, siamo riusciti a entrare una volta a settimana. Abbiamo fatto anche in condizioni un po' limitative, nel senso che comunque sono entrato col trattore quando era molle, cosa che tendenzialmente sta benissimo e non si dovrebbe fare per quanto riguarda il suolo, e soprattutto dalle nostre parti noi abbiamo terreni scoscesi con poca capezzagna, con poca strada d'uscita, quindi andavamo di pattino, di ruote lisce completamente, tutto in controsterzo. All'inizio mi sono un po' cacata addosso. E direi, poi alla fine però mi divertivo, devo ammettere che mi sono anche divertito, un po' di premi a mano, un po' di premi sbloccati, un po' di controsterzi. Un po' di adrenalina. Ma gli avevi tolto i fermi al trattore, Marzio. Anzi, adrenalina insieme, no? Questa componente, niente male. Comunque sia, chiaramente noi abbiamo 2,5 ettari, qui ci tengo a dirlo, che sono poi quello che sostiene tutta un po' l'azienda, quindi anche stiamo rimettendo a posto gli ulivi, iniziamo a fare un po' di grano, facciamo un po' d'orto, tutte robe late, per il momento sta sostenendo tutto il vino, quindi per noi è fondamentale arrivare in fondo in qualche maniera. Ci lavoriamo in 3 su 2,5 ettari, quindi io mi occupo principalmente dei trattori, ma anche del lavoro nel campo quando non sono sul trattore. 3 persone siamo riusciti a fare selezione del verde, visto che prima potevo dire era difficile farla, su 2,5 ettari, 3 persone lavorano molto bene, questo per dare un bilanciamento, perché a volte noi sappiamo che tendiamo a ingrandire un po' le situazioni, a volte sperando di riuscire un po', però le annate cattive purtroppo ci riportano un po' indietro, ci costringono a capire che in effetti l'anno dopo è fondamentale, spesso e volentieri deve essere puntualissima. Anche i trattamenti, noi avevamo finestre di mezza giornata, una giornata, e di alcuni mezzo io riesco a farli oggi un trattore in una mattinata. Quindi mi permetteva di fare anche questo. Avere troppa terra vuol dire avere più mezzi agricoli. Questa è un po' l'opinione. Alla fine io ho fatto un bilancio, a me mi sembra di aver perso sui 25% rispetto agli altri annate, quindi penso, mi ritengo fortunatissimo, abbastanza fortunato. Però, come dice la Valeria, che è l'altra componente dell'azienda, fortunato una mazza, ci siamo fatti un culo della Madonna, siamo stati sempre sull'attenti, e quindi la fortuna, diciamo, ha un po' baciato gli audaci in questo contesto. Certo. Un po' questa storia, ecco, io ho detto la mia. Chiaramente il discorso della peronospora, è qui bisognerebbe aprire un discorso molto importante, che è la peronospora, che è un fungo oppure un'alga antichissima, mutagena, cioè nel senso che ha cambiato tantissimo. Io ho conosciuto persone che non sapevano neanche cos'era la larvata, cioè l'attacco arachide, prima ancora di poter vedere delle bolle sporulanti sulle foglie, che è una trasformazione che invece noi in Mugello vediamo già da 5-6 anni, ed è per questo che iniziamo a trattare anche molto presto, anche quando le minime sono sotto i 10 gradi. Intorno al vecchio detto delle 3-10, 10 gradi di minima, 10 mm di pioggia, 10 cm di tralcio, cioè nel senso la foglia è disponibile a accettare, quindi gli stomi aperti, quindi accettare quindi l'intromissione del fungo, 10 mm di pioggia che fanno saltare le spore dal suolo svernanti, quindi le spore svernanti sulla foglia, e 10 gradi di minima perché lavora un fungo, lavora la notte. La peronospora si è abituata in questi anni a lavorare anche di giorno, quindi ha avuto la possibilità di lavorare sulle giornate calde. Noi abbiamo visto anche quest'anno nottate sotto i 10 gradi e giornate sopra i 20, quindi anche clima molto particolare, cioè avevamo delle giornate anche calde, umide, quasi diciamo afose, se vogliamo dare un po' eccessiva, e la notte molto fredda. Lei lavorava di giorno, poi quando a un certo punto sono arrivate le temperature molto alte e quindi ci siamo ritrovati in situazioni invece quasi di semiticità, lei ha iniziato a lavorare con le umidità notturne. Quindi diciamo si è abituati sia ai momenti in cui le minime sono molto fredde, ma negli ultimi due anni si è abituata a lavorare anche col caldo, cosa che generalmente noi sapevamo benissimo. A un certo punto arrivavamo a giugno-luglio e la peronospora lasciava lo spazio immediatamente all'oïdio, e quindi i trattamenti di rame potevano essere messi un po' da parte, comunque non ci dovevamo occupare più di quel problema, e invece ci siamo ritrovati a doverne fare i conti anche a luglio, anche a agosto. Noi abbiamo visto uscire la peronospora fuori agosto, a settembre, cioè c'era questa peronospora che ha cambiato tantissimo il suo rapporto con il clima, e ci ha costretto almeno quest'anno, dove appunto abbiamo visto un'annata incredibile, dove c'erano settimane di caldo, poi tornavano settimane di freddo, poi settimane di caldo, cioè movimentazione continua, e lei sempre pronta, ci spiava, ci guardava e poi ci attaccava. Maledronza. Abbiamo una domanda per te, Marzio. Sono Francesco. No, mi chiedevo per l'inoculo di quest'anno, no, che sarà gigantesco, oltre nel senso la tecnica del più lontano, scusate. L'inerbimento, cioè siccome ora ricordiamo che la peronospora, diciamo, sverna a terra, si dice, no? Comunque sta a terra, poi con la pioggia risale, con gli schizzi pioggia risale verso le piogge. Quindi quest'anno ci sarà stato un inoculo pazzesco, perché ovviamente a un certo punto ha preso sopravvento. Quindi, oltre all'inerbimento fisso, diciamo, che un po' contiene i primi momenti, magari ti dà un po' di margine all'inizio di maggio, hai altri consigli? Come nel Mugello, appunto, siete più esperti, ora arriva anche da noi, cosa noi del Chianti Colli Fiorentini, cosa ci consiglia non ho consigli da dare, perché anche per me è comunque un'esperienza quest'anno molto particolare. Sicuramente, come dicevi te, l'inerbimento, noi poi lavoriamo chiaramente sulle semine e quindi ci troviamo con semine anche abbastanza alte e sfilari al pene. Quindi questo è sicuramente il primo aspetto. L'altro, io continuo a dire E lo dico perché sul livello con amici vignaioli, con compagni di lotta di fronte alla guerra che ci portano funghi, sembra un po' una satira, queste cose. Ma insomma, e loro mi dicevano tranquillamente, dicevano, no, ma che è troppo freddo, il rame è dannoso nei momenti sotto 6 gradi. Io dico, trattiamo a piccole dosi, trattiamo a piccolissime dosi di rame, cioè stiamo anche al 10% rispetto a quello che c'è scritto in busta, ma trattiamo costantemente, soprattutto i primi 2 mesi. Se riusciamo a tenere botta, cioè nel senso non ci occupiamo delle minime, occupiamoci dell'umidità, occupiamoci del ristagno dell'umido, andiamo a trattare continuamente, è una cosa indescrivibile parlare di agroecologia in questi termini, mi rendo conto, è una cosa, però di fronte a una stagione come questa, e secondo me si ne rivedremo le stagioni in questa maniera, cioè nel senso lo sappiamo benissimo. Non lo dire. Dobbiamo essere più pronti, ragazzi, dobbiamo essere molto pronti su quanto dice la selezione del verde, come abbiamo detto prima, dobbiamo essere sempre pronti a toccare la prima foglia sotto il grappolo, dobbiamo essere pronti a questo, cioè dobbiamo aumentare le nostre possibilità di intervento fisico e manuale all'interno della vigna. Pronti a combattere. Cioè è una cosa gravosa, sicuramente gravosa, però bisogna fare una roba del genere, sono convinto. Bene. Io approfitto per salutare. Grazie dell'ospitalità. Grazie mille, grazie a te. Alla prossima. Ciao Francesco. Ciao. Grazie. O se no pensavo, cioè l'alternativa potremmo diventare dei bravissimi allevatori di peronospora. Ma però poi no. Che ce ne facciamo? La mangiamo. No, sono funghi, proviamo. Magari sballano. E sballano. Perché non mi provai nessuno, Va bene. O se no Taheshi deve parlare della sua esperienza. Qual è la parola che diresti? Allora, parlo a nome di entrambe, mia e della Grevana, da bravissime viticoltrici. Neo viticoltrici, siamo rimaste senza parole, ma proprio completamente, cioè non riuscivano più neanche le bestemmie a un certo punto. Noi abbiamo abbandonato la vigna, penso a metà giugno, perché ovviamente il Val d'Arno può regalare veramente grandi gioie, tra cui una nebbia perenne la mattina, poi il sole 30 gradi il pomeriggio, poi la sera piove e poi rinizi così il giorno dopo. Una tragedia incredibile. Detto questo, però, sicuramente giocano tanto, infatti mi interessava incontrarci qua tutti e quattro, perché gioca, secondo me, come diceva Marzio all'inizio, è importantissimo le differenti zone su cui lavoriamo e anche l'esperienza che abbiamo accumulato negli anni, e quindi questo fa tantissimo. E Marzio, ti toccherà insegnare a tutti noi e passarci, come effettivamente stai già facendo, tutti i tuoi saperi accumulati nel tempo. Pillole di saggezza vogliamo, Marzio. Una questione di terroir. Pillole d'anzio, pillole d'anzio. Siete pronti? Non lo so. Beh, stavo pensando a una coltivazione di mango e avocado. Che ne dici? Questa potrebbe essere un'ottima puntata pilota per una rubrica sulla viticoltura, che potreste intitolare Però no spera che vada tutto bene. Va bene, io spero che vada tutto bene. Però no spera. Io vi ringrazio, ma in fin dei conti, allora, cioè, ma dove lo andiamo a comprare il vino? Solo da te, Marzio, quest'anno? Da me. Guarda, anche noi che facciamo la bottiglia, siamo alla collettiva, questa bottiglia divertente, al giusto prezzo, per dicendo, e tutti coloro che fanno la collettiva siamo così, perché è fatta di più persone, di più vini, buona parte della nostra. Ma tutte le persone che ci dovevano portare l'uva non ce l'hanno portato nemmeno in grado. Noi stessi, avendo questa riduzione, quest'anno abbiamo saltato una bottiglia, diciamo, più semplice, quindi anche da noi, ci sono le annate scorse. Poi noi vediamo il fatto che abbiamo l'anno scorso super produttiva, e quindi anche questo ci ha messo un po' l'anima in pace. Certo. Vabbè, berremo il vino dell'anno scorso. Però il vino dell'anno scorso. Ma pensiamoci l'anno prossimo, ai drammi dell'anno prima. L'anno prossimo tutta birra, Tutta birra. No, perché io mi ricordo questa frase di un nostro compagno del mercato, finirà prima l'acqua del vino, ma forse non l'abbiamo messo in conto la peronospera. Ma va bene, dai, noi speriamo che ancora per anni e anni non ci manchi questa bevanda a cui noi siamo molto affezionate. Molto. Va bene, grazie Marzio. Volete aggiungere qualcosa? Un buon augurio per la stagione a venire. Per la stagione a venire. Sì. Sì, davvero, sì. Per la stagione davvero, mi raccomando, semine a tutto po', perché se lo può permettere, preparate la vigna, state attenti. La iniziamo a coccolare da ora, eh? Sì. Subito, parole dolci, certo. Carezze. Dai, una domanda io invece la voglio fare ai viticoltori qui presenti, visto che si parla di coccolare la vigna, ma sì. Su la potatura, quando sarebbe meglio muoversi anche per... favorire magari una crescita anticipata del germoglio, magari altro grande problema dei vignaioli, esatto. Questa secondo me è una, può essere un metodo tecnico vitivinicolo per comunque arrivare iniziare bene almeno. Iniziare bene, sì, iniziare bene. Boh, voi che ne dite? Io oramai dall'altro anno, sempre in rapporto al fatto che siamo in 3 su 2,5 ettari, là dove abbiamo i cordoni speronati potiamo, lasciando il cornetto più lungo, alto fino all'ultimo filo, e poi ripassiamo tardissimo, cioè, fate una prepotatura praticamente a mano, potiamo completamente, ma il cornetto invece di lasciarlo alle 2 gemme lo lasciamo in cima, quindi abbiamo queste 5 tralci lunghi che andremo a toccare solo quando riteniamo che si sono allontanate le possibilità di una stronzissima gelata tardiva, certo. E che purtroppo abbiamo avuto negli ultimi anni diverse gelate tardive, certo, che ci hanno portato a subire delle perdite, chiaramente, perché a quel punto abbiamo avuto la 17, noi non abbiamo raccolto nulla, ma comunque abbiamo avuto diverse annate dove i cellulari sono stati toccati, e quindi anche lì cerchiamo di fare un lavoro che non è mai esaustiva, perché poi a un certo punto può succedere che comunque la pianta butti tardi, ai germogli tardi, trappoli tardi, maturazioni lenti, cosa che invece quest'anno non è successo. Cioè, alla fine noi pensavamo di avere una maturazione lenta, non so se vi ricordate, è stata un'annata in cui eravamo indietro su tutta la linea di almeno una settimana, sulla 10 giorni sulla normale maturazione per chi aveva l'uva, chiaramente, e poi invece ci siamo trovati a vendemmiare con un anticipo di 10-11 giorni. Sì. Quindi anche questa è una cosa, cioè, è veramente, in questo momento è veramente un concetto dell'osservazione costante, della scommessa, dell'idea di provare una cosa e confrontarsi con gli altri. È fondamentale, non ci si capisce più una mazza, veramente. E infatti accetteremo la proposta di Palmiro e nascerà la rubrica radiofonica per i viticoltori. Spero no, spera. E spero, perfetto, no. Grazie sottotitoli mille. Sottotitoli annesso. Grazie Marzia. Grazie a tutti. A presto. Ciao. A presto. Ciao a tutti, buon base. Ciao. Grazie Zoro, e adesso abbiamo una canzone special, ci dicono, sì, dalla regia. Sì, dopo Radio Tragedia, appunto, aspettami lì che arrivo, ora passiamo a Radio Love, alle dediche, e questa canzone la dedichiamo a uno dei nostri produttori, Christian, di Pecora Nera, che fa il formaggio molto molto molto buono, e non vi diciamo altro, care coproduttrice, andate a assaggiarlo. Andate ad assaggiarlo, fatevi conquistare. Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni che burrasca calmerà. Pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò, e tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te parlò. Dille tu signore, dille che tornerà, l'uomo suo difendi dal mare, dai pericoli che troverà. Tanto giovane mio Dio, ed il nero è un triste colore, la sua pelle bianca è profumata ha bisogno di carezze ancora, ha bisogno di carezze ora. Pesca forza, tira pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare. Mare che non t'ha mai dato tanto, mare che fa bestemmiare quando la sua furia diventa grande e la sua onda è un gigante, la sua onda è un gigante. Dille, dille tu signore, dille se tornerà quell'uomo che sente meno suo ed un altro le sorride già. Scaccialo dalla sua mente, non l'indurre nel peccato. Un brivido sente quando la guarda, è una rosa lui le ha dato, è una rosa lui le ha dato. Rosa rossa pegno d'amore, rosa rosa dalla spina, nel silenzio della notte ora la sua bocca le vicina. No per Dio non farlo tornare, dillo tu al mare. È troppo forte questa catena, lei non la vuole spezzare, lei non la vuole spezzare. Pesca forza, tira pescatore, pesca non ti fermare, anche quando l'onda ti solleva forte e ti toglie dal tuo pensare. E ti spazza via come voglia il vento che vien voglia di lasciarti andare giù leggero nel suo abbraccio forte. Ma è così cattiva poi la morte, è così cattiva poi la morte. Dille, dille tu signore, dille che tornerà. E rieccoci dopo questa meravigliosa canzone. Ringraziamo per le dritte e per tutto l'amore che c'è per il nostro Christian di Pecora Nera da noi della regia. E abbiamo qua con noi Stefano, che era da un po', insomma, che non sentivamo. Stefano, ci senti? Stefano, ci senti? Stefano? Non ci sente. Pronto, pronto? Pronto. Eccoci! Finalmente, bentornato. No, l'abbiamo riperso. Ora ci sei? Ci senti? Sì, sì, ci sento benissimo, sì, molto bene, molto bene. Perfetto. Ti lasciamo la parola, volevi leggere qualcosa? Sì, una cosa che mi ha fatto pensare a questo discorso delle piazze, della piazza che vi ospita, questa o altre che vi ospiteranno, che spesso sono a rischio, insomma, quindi il punto è riuscire a far sì che proprio la presenza di cittadini ed altro possano tenerle. Quindi ho pensato di dedicare una cosa intitolata Piazze e ve la mando a voi e a chi ci ascolta. Grazie. Okay. Dunque, belle le piazze, schiudono le strade all'aria, offrono lo scarto al pallone bambino e a quello vinoso adulto, accolgono feste e saluti, balli in maschera, slogan intorno alle bandiere belle, ospitano fontane memorabili ed altre meno nobili ma altrettanto scolpite. Da queste l'acqua esce a festa anche lei, pronta alla beva. Le piazze si aprono e si sciolgono da sole, non incoraggiano i recinti, sono frequentate da chi vi abita e da chi le vuole incontrare. Le piazze non hanno padroni ma solo cittadini, e ogni tanto offrono alle pietre antiche del selciato il sollievo di banchi ritti della verdura giunta dalle zolle fuori porta. Qui uomini e donne caricano sporte per fare buona la tavola e addomesticare il lavoro affaticato. Bocconi più dolci per una vita troppo grama, ingrata, spesso ingiusta, sorda alle battaglie, pronte alle mani. Ok. Grazie, e allora ne approfitto per invitare tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori, correte in Piazza Tasso perché Via del Leone vi sta aspettando con l'assemblea aperta, riabitiamo le piazze. Benissimo, perfetto. Grazie ottimo. Stefano. Grazie a voi, grazie ancora. A presto. Buon lavoro e buon tutto. Grazie davvero, arrivederci, ciao a tutti. Ciao, ciao. E arriviamo verso la conclusione, che non può essere più spumeggiante che mai, se non con il nostro cinemela, con la nostra Pamela. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry. E benvenute e benvenuti a tutti a Cinemela, seconda puntata della seconda stagione. Oggi sarà una puntata tutta fatta di sottorubriche. La prima sottorubrica che vi propongo è una sottorubrica dedicata al teatro. Molti contadini e molte contadine sono appassionate di teatro o praticano il teatro, come il nostro teatro contadino che ha intermezzato la giornata del microcredito sabato scorso alle Piagge. Beh, io oggi vi propongo questo spettacolo che si chiama La conquista dell'inutile, uno spettacolo di Pier Giorgio Milano con Whiteout, cioè altri due acrobati, uno spettacolo di acrobati sull'alpinismo. È una operazione molto interessante di utilizzo di un linguaggio di solito utilizzato per gioco e per trattare argomenti comici oppure comunque leggeri, applicato invece ad un tema come può essere a volte una spedizione alpinistica, assai drammatico e forte. E questo spettacolo io l'ho visto qui a Firenze al Puccini martedì scorso, però sarà in programmazione a Carrara a febbraio, quindi se vi capita io vi consiglio di andare a vederlo. La seconda sottorubrica è nella quale invece ripassiamo al cinema, sono i consigli dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Il primo film che vi propongo si chiama Promised Land, è del 2012 ed è di Gus Van Sant, un regista molto affermato, un regista che lavora anche da molti anni e che ha fatto anche un ottimo film negli anni 90 che si chiama Belli e Dannati. E è un film con Matt Damon che riguarda un po' sempre il tema dell'estrattivismo e del convincimento delle persone a cedere la terra per in questo caso motivi di estrazione di energia, di gas. Però insomma conosciamo già sia Asbestas, che riguarda invece l'espropriazione per l'installazione di pale eoliche, e Alcarraz, che invece riguardava l'espropriazione per i pannelli solari. E diciamo che sono un po' questi film denuncia che in particolar modo per noi contadini, insomma, sono contadini e contadine, sono importanti e sono anche gradevoli, belli e fatti in maniera seria. Abbiamo un'altra segnalazione, questa dalla redazione, da Clio, che di questo film di Emmanuel Gerosa, One More Jump, che trovate su www.palestinafilminstitute.org e che verrà presentato appunto al Festival del Cinema sulla Palestina. E che però ancora non ho visto, quindi non ve ne posso approfondire ulteriormente le tematiche, però lo guarderemo tutti in simultanea. L'altra sottorubrica è che vi propongo oggi, dentro la quale ho inserito un paio di film, è una sottorubrica un po' più farfallona e leggera, in modo da non darvi soltanto dei film, diciamo, mattonata che uno deve aver mangiato leggero per guardare. Il primo si chiama Emily ed è di Francis O'Connor con Emma McKay, ed è la storia di Emily Bronte, la scrittrice di Cime Tempestose, un film molto romantico che ha tra l'altro anche delle visuali molto, molto belle, molto pittoresche, ha una fotografia molto bella, ambientato in Yorkshire, quindi sulle campagne inglesi sterminate, con questi climi umidi e uggiosi. È la storia di questa ragazza diversa, decisamente diversa, dentro a una cultura comunque molto maschile, maschilista, e della sua anche espressività e emotività, ecco, diciamo che Cime Tempestose è stato uno dei primi romanzi intimisti del periodo tardo romantico, e quindi un po' il film è tutto, prende un po' tutta questa atmosfera. L'altro invece è un film simpaticissimo spagnolo che si chiama Toc Toc, è del 2017 e è un film tratto da un'opera teatrale, e quindi anche per questo è interessante, perché si gioca tutto nello stesso ambiente, e è diciamo, l'espediente è quello di fare un gruppo di aiuto psicoterapeutico di persone che soffrono di un disturbo ossessivo compulsivo, e quindi ci sono queste 8-10 persone che si trovano per risolvere il loro problema di disturbo ossessivo compulsivo, però ahimè manca il terapeuta all'appello, e quindi in qualche modo loro si devono arrangiare. Diciamo che la bellezza anche di questo film non è soltanto la genialità di alcuni sketch, la simpatia, insomma, un po' complessiva di tutti i disturbi messi in luce da questo film, ma anche il fatto che quando non c'è una conduzione in un gruppo, secondo me, insomma, è interessante questo aspetto, un po' come ci sono anche comunque delle tecniche di gruppo psicologiche volte a far emergere le dinamiche, quando non c'è conduzione nel vuoto, che cosa succede in un gruppo. E beh, particolarmente simpatico poi perché uno dei disturbi è la sindrome di Tourette, che mi è particolarmente affine e trovo particolarmente simpatica, e quindi insomma è un po' tra il dramma e la risata. Alla fine, insomma, ognuno di noi porta a casa qualcosa, ecco, da questa opera cinematografica. Questa la trovate tra l'altro nella antietica e odiatissima piattaforma di Netflix, quindi è abbastanza anche di facile accesso, e direi che è tutto per questa puntata di Cinemela. Quindi abbiamo Promised Land, One More Jump, Emily, Toc Toc, lo spettacolo teatrale di Pier Giorgio Milano, La conquista dell'inutile, e io vi lascio. Grazie Pam, meravigliosa come sempre. Bellissima. Ci apprestiamo quindi ai saluti per questa puntata. Alla fine è durata un'ora, abbiamo sforato perché abbiamo iniziato in ritardo, chiediamo sempre scusa, ma ringraziamo. 2 ore, abbiamo iniziato alle 4. Esatto, però è durata 2 ore, il tempo giusto. Ci tengo, scusate, a ricordare che il 30 ottobre ci sarà l'iniziativa in piazza Elia della Costa. Se qualche vino, nonostante l'annata, sì, dovete, esatto, assaggiare, e anche, esatto, qualche ottima zuppa, mi dicono. Esatto, è la giornata sommelier, parte alle 17 al mercato, presso il mercato di Gavinana. Tutti presenti e tutti sobri, mi raccomando. Prima, dopo, esatto, chi lo sa. Dopo chi lo sa. Dopo vedremo. Dopo vedremo. Bene, buona continuazione. Per chi vuole, ricordiamo di nuovo, insomma, che gli ospiti che abbiamo avuto qua in regia francesi li potrete trovare in Piazza Tasso, la presentazione del loro film. E buona serata. Con tanto di aperitivo. Esatto. Va bene. Allora, tanti saluti. Ci vediamo fra 2 settimane. Fra 2 settimane esatte. Ciao. Ciao, ciao. Presto. Ciao, ciao.